Signore e signori, siamo qui riuniti quest'oggi per udire la più sensazionale presa per il culo contro i fottuti hater di merda. Godetevi lo show. Vaffanculo, l'ho detta ancora male, Enemy, la rifaccio? No, lascia perdere proprio. Cosa vuoi tete? San ciccione, state zitto, mostraci le tette. Fate tanto i duri, siete froci e ci avete un cazzo in sette. Frate con nemico, cazzo prendi solo sberle. Rime tipo, scrivo tipo parassiti e zecche, ma solo da tastiera. Quindi zater, hater, nessuno al mio livello. Al di sopra ci sta solo lo snapback. Questi zio mi odiano, eppure io li adoro. Capisco quanto amore, poi ci mettono al lavoro. Vorrei farlo di mestiere, ma non sono come voi. Al massimo ti smerdo con le rime quando e dove vuoi. Faccio sempre freestyle, non conosco la cultura, no. Ma sono ironico, lo sai. Come quando dici che la mia non è bravura. Ma mai sentito, oppure c'è paura? Ma sei serio? Ma cazzo, ma proprio che ti credi, dai. Parlo come stesso, come un vecchio nella night. Se dici che non spacco, te ne crederai. E anche se lo dici non mi importa mai. Scrivo favole fermate, mica fai. Passo le giornate con il mano e mai. E se mi credevi perso, dai lo sguardo in alto. Sono quello stronzo che prende nell'universo. Non capisco che qui sono froce, che tu parli di me. C'è da dire, ti racconto io, ti racconto tutto. Nato in un paese dove il ballo è brutto. Se che cosa vuoi sapere, tiro avanti a stento, in cerca di contanti che mi farebbero contento. Certo, ne vorrei 100, anzi fai 200, anzi fai una bella cosa. Qui ci metti zeri, più mi sento meglio. Sei felice senza soldi, passali di qua che te li tengo. Ti giuro non li spendo, penso che forse ho detto una bugia, aspetta me ne vendo. Ti avrei detto che forse ho detto una bugia, mica per il fatto che te li sperpero. Ti do un calcio nei coglioni e diventi un vegetale, soprannominato Zenzero. Ma cazzo, ma proprio che ti credi, dai. Parlo come stesso, come un vecchio nella night. Se dici che non spacco, ti non crederai. E anche se lo dici non mi importa mai. Scrivo favole fermate, mica fai. Passo le giornate con il mano e mai. E se mi credevi perso, dai lo sguardo in alto. Sono quello stronzo che prende nell'universo. Ma cazzo, ma proprio che ti credi, dai. Parlo come stesso, come un vecchio nella night. Se dici che non spacco, ti non crederai. E anche se lo dici non mi importa mai. Scrivo favole fermate, mica fai. Passo le giornate con il mano e mai. E se mi credevi perso, dai lo sguardo in alto. Sono quello stronzo che brilla nell'universo. E se mi credevi perso, dai lo sguardo in alto.